Doppio sconto, grandi saldi. Non aspettare. Scatenati con lo shopping a MacArthur Glen nella Reggia Designer Outlet e risparmia sui tuoi fashion brand preferiti con prezzi outlet ancora più scontati. Vieni a trovarci. Sabato e domenica siamo aperti fino alle 21. Avete la passione per la musica e l'intelligenza artificiale? Allora non potete perdervi il Festival della Canzone Artificiale 2025 organizzato da Runtime Radio. Questo concorso, giunto alla seconda edizione, è aperto a tutti e completamente gratuito. Dovete solo creare un brano musicale originale utilizzando l'intelligenza artificiale e inviarlo a runtimeradio@gmail.com entro il 29 dicembre 2024. La canzone può essere di qualsiasi genere o tema, ma deve essere completamente generata da un senza alcun editing post-produzione. Una giuria di esperti e il pubblico voteranno le canzoni per decretare il vincitore assoluto del Festival della Canzone Artificiale 2025. Non perdete questa occasione unica di mostrare il vostro talento musicale e di far parte del futuro della musica. Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento completo, visitate il sito web ufficiale dell'evento all'indirizzo www.festivaldellacanzoneartificiale.it o inviate un'email a runtimeradio@gmail.com. Iscrivetevi subito e preparatevi a far sentire la vostra musica al mondo. Festival della Canzone Artificiale 2025 è un evento Runtime Radio, la web radio geek. Ogni nota è un viaggio, un sogno virtuale, corriamo tutti a votare. Festival della Canzone Artificiale, ogni algoritmo uno stile, ogni brano armonia, noi solo servizi gratis, ma la tua è uguale alla mia. Sta musica viaggia dall'intimo a mezz'ala, senza crediti si ferma a Carrara. Non fa una formica, fai la cicala. Dona Runtime, se no che cazzo paga? Dona Runtime, se no che cazzo paga? Sì, prodotti di gran qualità. Facciamo col gol anche senza la schedina. Facciamo il tifo per Juve, Roma, Lazio, Fiorentina. Siamo sempre pazzi per il pallone, gridiamo l'arbitro è un... Anche senza la schedina, ogni lunedì su Runtime Radio alle 7 di mattina. Ah, belli de casa, bentornati qui su runtimeradio.it come tutti i venerdì mattina alle ore 7. No, c'è sempre grande confusione quando faccio questa live la domenica, che potrebbe anche diventare, tutto sommato, non una consuetudine fissa, perché io non lo so quello che faccio la domenica mattina, potrei anche avere altri impegni, essere altrove e in viaggio per qualche destinazione esotica, non lo so, però insomma, se ci sono, magari ogni tanto saltuariamente potrebbe essere una buona abitudine quella di fare una live la mattina. Ma a questo punto servirebbe una nuova sigla, perché è la sigla del Grande Reset del venerdì mattina e la sigla del Grande Reset la domenica mattina, perché giustamente si confondono le cose, creano grande confusione. Comunque la sigla dice grande cambiamento e vi lascerò con un elemento estremamente criptico. Questo è il giorno prima dell'inizio di una nuova vita per me e per Michela, e quindi dai, è tutto molto concentrato, anche perché noi avevamo degli obiettivi nella nostra esistenza, che chi ci segue da anni li conosce questi obiettivi, ma soprattutto san che abbiamo perso anche tanto tempo, tanti anni a rovistare, insomma, tra i vari problemi dell'esistenza, cose volute, cose non volute, però insomma a un certo punto è pure ora che anche basta, diciamo. Ma la cosa molto divertente è che poi ne parliamo nel primo segmento, perché ieri poi è successa una cosa che ieri sera mi ha fatto molto riflettere su c'è un mondo per alcune persone, cioè, e per altre persone non c'è un posto per quel mondo, che tutto sommato deve essere da sprono per insomma rientrare, diciamo. Dall'altra parte c'è anche un discorso un po' più ampio da fare, ma insomma adesso sto spoilerando, ne parliamo dopo, fra poco ne parliamo. Intanto salutiamo Mr. Zero, Capitan Kate Harrow di Radio Anziano, Deborah del canale Pixel Deb, andate su YouTube, iscrivetevi al canale Pixel Deb, attivate la campanella, mettete like a tutti i video, guardateli soprattutto, che è importante, fammi minutaggio, e condivideteli. Poi salutiamo anche Luca S, e non so se c'è qualcun altro tipo Vincent Valentine e via dicendo. Mentre ragazzi, è incredibile, devo dire che se faccio un ragionamento sul Festival della Canzone Artificiale, da una parte noi veramente l'abbiamo iniziata con una cazzata, no? E poi dopo tutte le segnalazioni che ci sono arrivate, le richieste di interviste e via dicendo, abbiamo dato una struttura a questa cosa, cercando di farla diventare qualcosa di meglio. Mi piacerebbe che nella terza edizione, quindi se ci sarà una terza edizione fra due anni, cioè comunque nel 2026, ci fosse ancora più struttura e ci fosse anche un maggiore allargamento, magari anche una varietà maggiore, no? Pure sui tool di utilizzo, perché oggi insomma alla fine i tool di utilizzo sono due, Suno e Udio, quindi poi alla fine diciamo che le canzoni rischiano, no, di avere sempre un po' uno stesso pattern. Però la cosa che veramente mi sorprende, al di là di tutto, è che a tre mesi dall'evento siamo arrivati, cioè abbiamo quasi finito, cioè mancano sei posti per poter chiudere praticamente le iscrizioni, che in realtà si sarebbero dovuti chiudere a fine dicembre, o si dovrebbero chiudere a fine dicembre, perché ancora non lo sappiamo, non è detto insomma quello che succederà, come succederà, però mancano solo sei posti. E devo dire che se la prima volta, no, con 20 canzoni, diciamo, alla fine abbiamo dovuto un po' barcamenarci, no? Cioè, nel senso, comunque abbiamo dovuto andare lì un po' a rompere il cazzo anche la gente, non che non l'abbiamo fatto in questa occasione. Quest'anno con 30 canzoni siamo praticamente arrivati a 24 canzoni già arrivate, e c'è molto fermento, tra l'altro, perché poi proprio in virtù del fatto che oramai siamo prossimi alla chiusura delle iscrizioni, sono abbastanza convinto che in una settimana, due settimane avremo chiuso le iscrizioni. Stiamo già lavorando poi alla fase del format, no? A questo punto, che sì, ce l'avevamo già in testa, però prima o poi ufficializzeremo anche quelle sono le date, quindi ecco, durante la prossima settimana molto probabilmente ufficializzeremo le date, ma vi dico solo che, essendo questa volta la vera intenzione di fare l'Antisanremo, probabilmente il festival avverrà tutto nell'arco della settimana, quindi le tre serate iniziali più la finale distaccata di qualche giorno, insomma spero che poi la gente avrà la voglia di ascoltarci, perché tre serate del Festival della Canzone Artificiale, però non avrebbe senso dilazionare ogni serata eliminatoria a distanza di una settimana, come abbiamo fatto lo scorso anno, perché poi diventerebbe un mese e una settimana alla fine l'evento, insomma diventerebbe un po' complicato e un po' brutto. Però devo dire, sono veramente contento, grazie a tutti quelli che stanno partecipando, che ci hanno messo l'impegno, e poi ve ne accorgerete durante la manifestazione, perché poi tutti hanno partecipato scrivendo nella mail anche la bio anche fittizia del personaggio, dell'autore, l'esplicazione della canzone, hanno rispettato le regole, anzi addirittura c'è stato un utente al quale stavo per rifiutare la canzone, perché c'era minimo ma evidente editing dal punto di vista dell'equalizzazione, che alla fine mi ha riscritto immediatamente: scusa, ti ho mandato la canzone sbagliata, questa è la canzone raw, quella insomma nuda e cruda. E l'ho apprezzato molto, no, come tipo di atteggiamento. E secondo me sarà una cosa, ovviamente l'evento sarà tanto interessante quanto riusciremo a renderlo interessante anche noi, no? Come vi ho fatto l'altro anno, io e Marco e Michela, cercando di riderci anche sopra, ma non ridere delle canzoni, ma ridere dell'idea dell'evento, perché io ho visto qualcuno forse l'ha presa anche sul serio pure l'altro anno, no? Qualcuno l'ha presa un po' sul serio, e fanno bene, è giusto che uno comunque quando partecipa a una cosa ci mette un po' l'impegno, no? Cioè nel senso, comunque alla fine è sempre una competizione, vuoi o non vuoi, no? E, però capendo che è un gioco comunque, cioè che è un gioco, che è una sperimentazione, anche l'utilizzo di strumenti, metterci noi un po' alla prova a fare una cosa che è anche un po' al di fuori delle nostre corde normali, no? Tanti anni fa noi pensavamo di organizzare degli eventi live con la musica, con le band, però è sempre stato tutto molto complicato, no? Diciamo che questa cosa dell'intelligenza artificiale ci ha anche un po' semplificato la vita, no? E questo va detto. E poi insomma domani mattina alle ore 7 parte anche senza la schedina. Sono anche un po' emozionato perché era un'idea, noi da anni abbiamo sempre detto di mettere un programma sportivo, anche se ci vantavamo di distinguerci per essere comunque una radio che non aveva il programma sportivo, però poi alla fine abbiamo detto sì, ma noi abbiamo fatto Euroludica, Mondoludica, tutte le varie manifestazioni della UEFA e della FIFA organizzate, tipo che ne so, gli europei fatti con il nostro stile, no? Anche grazie a Marco Bianchi e Stupide Creature e a tutti gli altri insomma ragazzi che Runtime Radio è sempre riuscita a coordinare in qualche maniera per fare, diciamo che presa da quell'esperienza, chi seriamente, chi meno seriamente parteciperà a questo progetto che sì, parlerà di calcio, di sport, ma insomma sempre come facciamo noi. Primo brano della giornata l'ha chiesto Vincent Valentine, anche se lui chiedeva la versione dei Police, noi invece abbiamo solo la versione live di Sting. Che poi vabbè, va questa distinzione tra la versione di Police e The Sting è pure relativo, no? Nel senso che alla fine Sting era di Police, poi fondamentalmente Sting, che io non ho mai amato, io Police e Sting non ho mai proprio, non mi sono mai entrati nella pelle, anzi sapete quelle cose che anche se sai che sono belle, che hanno una grande qualità, che c'è molto sentimento, tutto quello che vi pare, io quelle cose che proprio epidermicamente non passano, cioè non è qualcosa che non va nel suono della voce o nella percezione di un artificialità, insomma io riconosco la genialità, la bravura, la grandezza pure dal punto di vista compositivo, però proprio a me Sting, ragazzi, mi sta sul culo, non è che ci posso fare niente. E tra l'altro, cioè nel senso, ma non con odio, cioè nel senso, non è che sto lì che dico ah, Sting deve morire, perché alcuni fanno pure così, ma semplicemente non, né Sting né Prince sono due artisti, grandissimi artisti secondo me, che proprio non, invece metto anche un po' Michael Jackson, però Michael Jackson è più coinvolgente da un certo punto di vista con quelle canzoni, cioè stiamo parlando veramente del dio assoluto del pop, della musica mondiale, insomma, quindi è veramente difficile dire oh, ma Michael Jackson mi fa schifo, ma a me non mi fanno schifo neanche Sting e Prince, cioè semplicemente non passano, come non passano, cioè è proprio un muro, come sento la voce mi si irrigidisce l'anima, vabbè, non esageriamo. Ciò nonostante comunque piace ascoltarli, cioè nel senso comunque li metto se me li chiedono, se devo scegliere io sicuramente non li scelgo, ecco, insomma questo è abbastanza chiaro. Comunque ieri sera, ragazzi, non so se quanti di voi sapete che io sono nato a Piazzari di Roma, diciamo a Piazzasti, ecco, diciamo così, proprio se vogliamo essere precisi, però sono diciamo Piazzari di Roma per 35 anni e più ho vissuto in quello che è stato il mio quartiere, no? San Giovanni, l'Appio Tuscolano e tutta quella zona che tra la Re di Roma, Ponte Lungo da una parte, San Giovanni dall'altra, per me quello era il mio regno praticamente, dove io facevo cose di ogni genere e conoscevo ogni aspetto poi del quartiere, perché comunque giravo, camminavo tantissimo e via dicendo. E ieri sera, dopo tantissimi anni, veramente dopo tantissimi anni, sono tornato in zona con Michela, perché a noi ci è venuto in mente di andare a vedere uno spettacolo teatrale di sabato sera in una zona abbastanza centrale come quella, insomma, di Roma, Pontelungo. Infatti la prima ora l'abbiamo passata a cercare parcheggio, e questa cosa mi ha acceso proprio il ricordo, cioè di quando eravamo pischelli, andavamo in giro con la macchina a Roma e sapevi che un'ora del tuo tempo la dovevi buttare a cercare parcheggio. Questa cosa mi ha acceso un trauma, perché per me era una cosa insopportabile, pure quando ero pischello, cioè quando amici andiamo al centro, a me mi si accendeva la carogna proprio, perché era una cosa per me assolutamente insopportabile. Però al di là di questo, insomma, siamo andati a vedere uno spettacolo di cui parleremo la prossima settimana insieme a Michela su Disordinati Informati, al nuovo Teatro Orione. Teatro Orione, per chi conosce insomma Roma, per chi conosce quella zona lì, era il teatro parrocchiale del Don Orione, no? della chiesa del Don Orione, che è stato trasformato negli anni in un teatro commerciale, poi fondamentalmente. E sì, io apprezzo sempre, perché comunque se il teatro parrocchiale non esiste più, non c'è più senso di esistere, a questo punto cerchi di farlo diventare qualcos'altro, alimentando quello che è l'ambiente del teatro, che è un sottobosco oramai praticamente, quello del teatro, anche se per chi riesce comunque a fare spettacoli e avere comunque continuità di date, quindi a piacere con lo spettacolo che si fa, poi alla fine comunque non è che si guadagna poco nel mondo del teatro, e che è veramente difficile riuscire a mettere in moto, perché comunque i teatri non sono tantissimi, e quei tanti teatri che ci stanno, soprattutto in una città come Roma, magari immagino anche in altre realtà, sono piccoli teatri, no? Cioè, nel senso, sono quei laboratori teatrali, no? che hanno il teatrino, che ci hanno 50 posti, sì e no, e quindi alla fine tanti si basano su quello. E invece devo dire che il Don Orione, insomma il nuovo Teatro Orione, ieri sera si è presentato con una, a parte c'era il pienone incredibile in questo spettacolo, si chiama Arancione, poi ho detto ne parleremo, e c'era il pienone, e vabbè, di sabato sera te lo puoi un po' aspettare, ma visto che secondo me anche gli attori stessi non se l'aspettavano, infatti erano molto emozionati sia all'inizio che alla fine, quando hanno iniziato a recitare, che si percepiva un po' di destabilizzazione recitativa, che alla fine quando poi ovviamente sono stati tutti quanti i saluti e quant'altro. Comunque un teatro è diventato molto grande, sotto c'è la platea, sopra c'è la galleria, tipico proprio di come erano i teatri, vicini ai teatri, insomma, delle parrocchie importanti, diciamo negli anni 60-70, insomma, no? Io poi mi ricordo che con la scuola a Teatro Orione ci andavamo a vedere gli spettacoli con la scuola, quindi alla fine è una struttura storica che ha sempre funzionato, e adesso è diventata. Però devo dire la verità, allora, a parte il teatro, che l'hanno sicuramente rimodernato recentemente, vabbè, nuovo Teatro Orione, quindi vuol dire che ha anche chiuso e riaperto da un certo punto di vista, devo dire dal punto di vista estetico fa veramente schifo, cioè è triste vedere un teatro che è stato rimodernato ma proprio senza un minimo di cura, cioè non c'è niente di estetico, è proprio un ambiente freddo, completamente tipo te in bianco tutto e arrivederci, grazie, cioè è una cosa. E poi ragazzi, le sedie, questa cosa delle sedie mi ha fatto un po' riflettere, perché io e Michela siamo un po' grossi, diciamo così, no? E ci abbiamo delle difficoltà a volte in certi posti. A parte che lì vicino siamo andati a mangiare una piadineria che c'ha quei tavoli là, alti alti con le sedie alte alte. Io, ragazzi, io queste cose le odiavo anche quando ero magro, e sono stato veramente magro io, perché io non riesco a capire che cazzo di motivo c'ha dove fa sta scomodo delle persone solo perché fa cinematograficamente figo, cioè è una cosa insensata. Io non so se siete d'accordo con me, però cioè devi stare su sta stampella con le punte che ti viene pure il crampo al polpaccio, cioè io ragazzi, no, io non lo capisco, è una cosa che non capisco. Poi però ovviamente entra al teatro, se mettiamo seduti è il disagio. Io sono stato un'ora e mezza, due ore nel disagio totale, perché comunque stavo scomodo e alla fine mi faceva male la gamba, e cercavo di stare tutto da una parte per cercare di non far invadere Michela, magari non dar fastidio agli altri, insomma, vabbè. Però questo posso comprenderlo, cioè nel senso è anche un po' colpa nostra se siamo così. Però cioè devi mettere delle sedute umane, perché se tu metti delle sedute tutte appiccicate come ci sono nei teatri, devi anche nei teatri, nei cinema, devi anche considerare il fatto che non tutti sono della stessa stazza, insomma. Io infatti quando vado al cinema, in certi determinati cinema, non c'ho mai un problema da questo punto di vista. Certo, non so iper, cioè nel senso, perché comunque è chiaro che un po' è colpa mia, no? Non è che voglio dire di no. Però poi alla fine questo problema ce l'abbiamo dopo con gli aerei, no? Quando tu vai in aereo, no? E non ti senta, non ti cosa la cinta, perché ovviamente la cinta è fatta a prova di risparmiamo tessuto per la cinta. E quindi devi chiedere all'hostess che ti dà la cosa, no? L'aggiunta, no? Che arrivano con questa cosa. Ah, che vuoi aggiungere? Che è proprio la serie tipo: ah, ciccione di merda, di cioè, a volte il discorso è un po' questo, no? Ma non è che io lo sto parlando perché la soffro questa cosa, è che la trovo a volte ridicola. Cioè, immagino ci sono persone magari più sensibili di me che magari ne pagano un po' le conseguenze, no? Cioè, nel senso, se sentono. In più, a maggior ragione, perché dentro a sto cazzo di teatro noi c'avevamo dietro due persone, una coppia, che erano normali, cioè lei in particolare non era, era piccoletta, insomma, eppure stava stretta pure lei, cioè dovuta sta tutta di sbiego, vabbè, a parte il fatto che lui diceva: stai così, mettete affondate un pochino. Ah no, ma io poi devo stare con le gambe larghe, le donne non possono stare con le gambe larghe. E quello diceva: ma che cazzo te frega, ma tanto chi te vede, cioè nel senso, stai così, stai con te, ma non siamo abituate noi, che ma vaffanculo. E comunque al di là di questo stavano stretti pure loro, quindi c'è qualcosa che non va nella progetto. Io capisco, butta gente dentro, no? Cioè nel senso, più sono stretti i posti e più ci sono posti dove ovviamente puoi fa andare la gente, insomma. Però raga, è un po' un disagio sta roba, cioè diciamoci la verità, no? Non siete d'accordo? Boh, ditemi la vostra. E adesso ci sentiamo una canzone richiesta da Deborah. Carina. Io non conosco molto Alex Baroni in generale, non frequento. Bella canzone, bella anche contenutisticamente. Brava Deborah, brava Deborah, anzi brava Deborah qui da Carbon Creek per la sua dedica della mattina. Così mandavate fa l'uomo della radio, perché loro sanno che mi piacerebbe vivere nel piccolo granaio di provincia americano, quello vicino al deposito dell'acqua, dove c'è l'edificio fatiscente della radio, dove c'è solo uno che fa sta radio, che però può permettersi di trasmettere in tutta la contea, perché in America le leggi sono assolutamente diverse che da questo paese di merda, dal quale ovviamente ci costringono a fare le radio pirata. Guarda che cosa brutta. Comunque, dicevo, se vi è mai capitato di trovarvi scomodi o in situazioni così di disagio da essere discriminati, no? Tutto sommato, perché poi alla fine diventa un po' una discriminazione, come il discorso dei negozi, no? Cioè, nel senso, quando tu entri dentro i negozi che c'è solo quel tipo di abbigliamento e via dicendo. Per me è inaccettabile nel 2025. Ma a proposito del 2025, intanto vedo che entrano cani, gatti e mogli, che direttamente dall'esterno, quindi sentirete abbaiare probabilmente. Ha portato le lasagne, bene bene, questa è una buona notizia, brava brava, quindi insomma sono soddisfazioni. Nel 2025 l'anno del giubileo, ragazzi, l'anno del giubileo. Io ho dei ricordi traumatici del giubileo del 2000, perché ovviamente, come insomma vi dicevo prima, sono nato, vissuto e cresciuto a Roma, in una zona come San Giovanni, appunto, quindi Re di Roma, Montelungo, tutte queste zone qui. E ragazzi, io vi assicuro, sono abbastanza convinto che non sarà così in questa edizione qui, perché sarà sicuramente, ci sarà una grande affluenza, grande folla, roba del genere, ma non credo che sarà più come quella del 2000, perché il mondo è cambiato, sono cambiate tante cose, anche un po' l'approccio al viaggio, i motivi di sicurezza e tante cose. Però diciamo che Roma si prepara a questa ennesima invasione, come appunto quella di 25 anni fa, dove c'era gente accampata dappertutto. Dicevo, gente accampata pure dentro al cortile del palazzo dove vivevo io. Andavi a Red di Roma, c'era gente accampata su Red di Roma, sull'alberi, sulle panchine, le tende dappertutto. Cioè, ragazzi, una roba traumatica, e ti sentivi anche un po', come posso dire, non invaso, perché a me non è che mi davano fastidio, anzi erano pure carini, cioè nel senso, voi immaginate quanti figli sono nati durante il giubileo del 2000, insomma, no? Perché sì, viva Cristo, però magari si trovavano una tenda vicino all'altra e che nascevano i bambini, perché il Signore non vuole che si usino i preservativi. Sto fantasticando così, no? Però insomma, questa cosa del giubileo giustamente crea poi alla fine una sorta di disagio generale dal punto di vista sociale, più che dal punto di vista di spazio, di turismo, di invasione e via dicendo. Perché dal punto di vista sociale? Perché a Roma sono sparite le case in affitto, completamente sparite. Cioè, oggi affittare una casa in affitto lo devi far veramente ridere al proprietario di casa, perché sono diventate tutte case vacanza, B&B, Airbnb, Dringendi, Simbilli, Tidlilli. Insomma, alla fine comunque diciamo, non voglio fare l'ipocrita, forse l'avremmo fatto tutte quelle persone che hanno comunque avuto la fortuna di avere l'appartamento in più, è morta nonna, i genitori gli hanno lasciato magari una casa in più, una per fratello, una per... Cioè, secondo me, oppure uno che ci ha avuto l'opportunità anche economica di investire in mini appartamenti, appartamentini o cose del genere, che comunque poi alla fine oggi si ritrova in mano un piccolo patrimonio che durante l'anno del giubileo farà sfruttare nel modo più consono possibile. E tutto sommato ci sta, cioè io non posso dire che siete dei criminali bastardi, però chiaramente questo crea un problema, cioè crea un problema a livello proprio di allarme sociale, perché tanta gente che non può competere con i costi di una casa vacanza o di un Airbnb o un B&B in generale, no? Nel senso che non è che posso affittare una casa a quei costi, chiaramente, e quindi molta gente è costretta a ritirarsi verso le colline, diciamo così, andare verso l'esterno della capitale, dove la situazione non migliora se non ti allontani veramente tanto, cioè allontanarti talmente tanto dove chi ha gli appartamenti non ha senso che li affitti per il giubileo, se non nel momento in cui ci sarà veramente proprio il fulcro del giubileo. E quindi questa cosa è veramente un po' un problema. Fermo restando che, ribadisco, non so, magari, cioè nel senso che se io avessi delle proprietà e le avessi già trasformate per quel tipo di funzione, allora ci può avere un senso, no? Cioè, tu comunque già lo fai l'Airbnb con quegli appartamenti lì, durante il giubileo non farai nient'altro che aumentare del 50, 70, 100% il costo, e comunque guadagnerai lo stesso, ti riempirai di soldi durante quell'arco dell'anno, e poi arrivederci e grazie, ci ripensiamo l'anno dopo a vedere che cosa succede e che cosa non succede, senza considerare comunque l'importanza promozionale, no? Che un evento come questo c'ha per la città, e quindi il ritorno che ci sarà anche negli anni dopo a livello di turismo anche standard, sebbene poi Roma suo problema, grazie al cielo, diciamo, a fasi alterne non ce l'ha, poi ci sono stati anche momenti di crisi anche in quello, insomma, no? E quindi questa cosa è veramente un po' un problema, è un po' un problema che mi ha fatto riflettere al fatto che c'è stato un momento in cui ero in una fase di transizione della mia vita tra la vecchia vita e la vita questa che ci abbiamo, che ho adesso con Michela, dove uscivo comunque da una storia lunga, dove insomma alla fine ho dovuto fare delle transizioni pure dal punto di vista abitativo, e a parte un anno che ho vissuto a Grottaferrata, che è stato per me un trauma, perché veramente Grottaferrata, ragazzi, è un dormitorio. Non so se conoscete Grottaferrata, subito a sud di Roma, praticamente vicino a Frascati, che è più famosa e più conosciuta. Grottaferrata viene considerata una sorta di dormitorio di lusso, no? Dove alle 6 è morto tutto morto, non c'è più niente, perché comunque sono tutte ville, case, insomma. E ho vissuto praticamente per qualche mese dentro un garage. Io non c'ho... No, a parte ho preso tipo quei residence. Avete presente quei residence che si usano per lavoro, no? Ma lì qualche settimana, perché veramente fuori di testa proprio i costi e via dicendo. sono stato due o tre notti in albergo e poi sono stato dentro sto garage, no? E pensavo al fatto che comunque tutta questa gente che, quindi ribadisco, non le persone che avevano già quel tipo di attività e quindi facevano già quel tipo di attività con l'appartamento di nonna che l'ha diviso in due e ci ha fatto due Airbnb, anzi non Airbnb, due B&B, ma io penso a quelle persone che ne so, con i soldi del padre hanno comprato 4, 5, 6 box in fila di quelli là dove ci si parcheggiano le macchine e ci hanno costruito dentro degli appartamenti al limite dell'abusivo, no? Cioè nel senso, ecco, quindi tutti questi sciagalli che ovviamente durante il giubileo faranno festa perché nessuno gli dirà un cazzo, perché nessuno farà mai una verifica dal punto di vista fiscale e via dicendo, godranno come porci, mentre tutte le altre persone che si trovano in difficoltà, che devono venire a lavorare a Roma o che studiano o che qualsiasi altra situazione, che oggi si troveranno durante il prossimo anno, ma già da ora si trovano in difficoltà e costretti ad allontanarsi da Roma. E questo è un po' un problema che si ricollega anche a un problema che, di cui parliamo tra poco, subito dopo la canzone chiesta da Mr. Zero. No, ho sbagliato, forse quella di Luca S. Quello che a Roma per il giubileo del 2025 sta diventando una sorta di problema sociale, e nelle Canarie sta diventando un vero problema sociale, perché stavo vedendo, leggendo gli articoli e vedendo anche un documentario. Allora io alle Canarie, diciamo a Tenerife in particolare, ci sono stato qualche anno fa con Michela, perché i suoi genitori, quindi i miei suoceri, sono trasferiti lì da un po' di tempo, perché si era creato un po' questo mito che andava in giro da un po' di tempo, che comunque la vita a Tenerife per passare la propria pensione lì, insomma, in una situazione di agio, perché comunque la fiscalizzazione è bassissima, perché comunque ci sono servizi e via dicendo, quindi si finisce per comprare a basso costo una casa e stare al mare tutto il resto della tua vita, perché praticamente lì il clima, insomma, più o meno è sempre tra i 25 e i 35 gradi, insomma. Poi considerate che stai praticamente vicino all'altezza dell'Africa, ma sei comunque delle isole che sono in mezzo all'oceano, quindi c'è pure la questione dei correnti, dei venti, insomma, alla fine se sta bene, no? Questo è senza dubbio. Però poi alla fine l'impressione che ci ho sempre avuto, e Michele può essere testimone, che comunque il mio, a parte che piace il mare, cioè in generale, perché lì comunque vai lì per il mare, quindi a me sì, mi piace il mare, però dopo un po' due palle, no? Cioè, bella campagna, bella montagna, no? Dopo un po' due palle, insomma, il concetto, insomma, è analogo, solo che inverso. E però diciamo che la sensazione che abbiamo avuto, nonostante abbiamo visitato tutta Tenerife, ce la siamo girata tutta e ci è anche piaciuto, perché comunque tanti microclimi, tante realtà, comunque la cultura coloniale spagnola, gli edifici, lo stile, anche delle cose, delle leggende, c'erano anche le popolazioni ovviamente indigene che sono state chiaramente sterminate, perché insomma, che fai, non ne ha dato una sterminata le popolazioni indigene, io spagnolo non l'ho mai fatta questa cosa, insomma, nella mia storia. Però veramente anche bella, una bella esperienza, una bella gita tutto sommato, no? Però poi alla fine, girando in macchina, questa macchina che avevamo noleggiato, al di là delle peculiarità, delle cose particolari, alla fine vedevamo un'isola, e questo parlo già di tanti anni fa, non è che sto parlando adesso, un'isola che era praticamente costruita in ogni angolo, cioè vedevi proprio questo abusivismo totale, che, cioè, abusivismo, da noi sarebbe stato abusivismo, da loro evidentemente è consentito, perché talmente che investivano su questa cosa del turismo che costruivano, tant'è che oggi ci sono una marea di residence abitativi abbandonati, costruzioni lasciate a metà. Perché? Perché poi ovviamente quando tu supera dimensioni, ovviamente un certo tipo di discorso diventa un'esplosione, no, questa cosa, perché lì ovviamente il fattore turismo è il fattore fondamentale. Un'altra cosa che io dicevo sempre a Michela: Michela, questa è un'isola, è una roccia, tra l'altro mezza desertica, per colpa ovviamente del terreno che è prevalentemente vulcanico, cioè quindi se non investono in quello non c'hanno altre risorse. Il giorno in cui per qualche motivo non arriva più l'afflusso del turismo, questi che se magnano, cioè. Quindi a me mi ha sempre messo l'ansia in generale le Canarie. Tenerife ovviamente è quella un po' più gettonata, ma anche quelle isole delle Canarie che erano meno impattate da questa cosa dell'iperturismo, adesso sono impattate anche loro e non erano pronti a questo. Alcune realtà non erano pronte a questo tipo di discorso, perché che cosa ha portato? Al di là di Tenerife, che appunto oramai è completamente un'isola turistica, dove a nord ci sono gli americani, al centro ci sono gli inglesi, al sud ci sono gli spagnoli e gli italiani, insomma, cioè praticamente oramai è. Tant'è che se tu vai in macchina, quando giri le stazioni radio, c'è la stazione radio in russo, c'è la stazione radio in inglese, la stazione radio in italiano, cioè è così, questa è tipo la Svizzera, cioè ci sono i cantoni praticamente. Però le isole, quelle più piccole, meno impattate, cioè meno impattate dal turismo iniziale, ovviamente oggi si trovano in grossa difficoltà, ma compresa Tenerife, dove la gente stessa ti dice: sì, per noi il turismo è fondamentale perché noi ci viviamo, ma questa cosa ci ha portato tantissima gente alla povertà, perché non possono più permettersi gli affitti nei grandi centri, e quindi torniamo un po' al stesso discorso, e si sono dovuti andare nell'entroterra, ma l'entroterra di un'isola che tu giri in 4 ore con la macchina, cioè, capito? Quale può essere? No, ovviamente. E stanno nascendo una marea di baraccopoli. Questa è una cosa che mi ha lasciato inquietato, perché cioè, non ne sa parlare del Sud America, il Brasile ad esempio, no? Cioè, nel senso che conosciamo un po' le disparità sociali per motivi proprio anche strutturali, no? Tutta quella, insomma, parlate dell'Europa, della Spagna, sono spagnoli quelli, non so, che ne so, persone che magari sono abituate a quel tipo di situazione, o che comunque magari partono da lì per arrivare altrove. No, quella è una situazione di regresso. Cioè, è una situazione di persone che vivevano magari normalissimi borghesi europei, che oggi si ritrovano a vivere nelle baracche. Perché ovviamente questo impatto, e quindi oggi si sta scatenando praticamente la rivoluzione lì, cioè manifestazioni, e quando manifestazioni con decine di migliaia di persone in posti dove complessivamente ci sarà 1 milione di abitanti, sarà tanto. Adesso io sparo di cifre così, e ovviamente è significativo, ma io mi metto anche nei panni magari di quelle realtà magari più vicine, quelle proprio tipo Las Americas, no? Dove è proprio lì iperturistico, che magari, cioè, il turista magari può essere anche preso di mira, cioè nel senso attaccato magari dalle persone che si trovano oggi in una situazione di disagio, chiaramente. E molto delle persone che vengono prese, molte delle persone che vengono prese sotto accusa e proprio attaccate proprio direttamente sono i nomadi digitali. Questa nuova esperienza di vita che oramai da 10 anni spopola su YouTube, della gente che si compra il camper, fa il full timer e facendo il nomade digitale, ossia lavorando solo su internet, si permette di girare a destra e a manca, e questi che invece di girare magari diventano stanziali in un posto. E creando un problema dal punto di vista anche lì, anche sociale, perché comunque poi alla fine loro si possono permettere cose oggi che magari il canario normale non si può più permettere, proprio per questo tipo di situazione, insomma. Ecco, quindi se avete parenti, amici che vogliono andare a Tenerife per passare la loro vecchiaia, sconsigliatelo, perché non è assolutamente il caso. La canzone di Mr. Zero e poi torniamo per i saluti. E così abbiamo fatto contento anche Mr. Zero con questa canzone, è molto carina, anche questa non la conoscevo, quindi grazie di avermi dato questa opportunità. Come vi ho detto, la prossima settimana in Disordinati Informati parleremo di questo spettacolo di cui vi ho accennato, ma non ne parlo perché ne voglio parlare con Michela, mentre insomma per quanto riguarda me vi rimando a domani mattina alle ore 7. Sono un po' emozionato per questa cosa nuova che facciamo, vediamo, dai, poi sicuramente ci divertiamo. E mentre adesso vi lascio, insomma, tutto quello che è il resto della domenica di Runtime Radio, con le trasmissioni che di solito, insomma, vanno in onda durante durante la domenica, che sono il meglio di quello che abbiamo trasmesso durante la settimana. Detto questo, vi lascio a Il faro nei tuoi occhi, che è la canzone che ho fatto con l'intelligenza artificiale dedicata a mia madre, ma non perché la voglio rimettere per forza, ma perché mi è stato richiesto più volte, dato che non c'è opportunità di risentirla da nessuna parte per ora, ovviamente la facciamo sentire solo qui su Rante Medio, quindi ve la rimetto, però è l'ultima volta che ve la rimetto, ma grazie comunque di averlo chiesto. Un bacio a tutti e buona domenica. Ciao ciao ciao. Dieci passi li ho contati piano, dal letto alla finestra, ogni sera tu mi seguivi con la tua mano, come si segue una preghiera, e nei tuoi occhi ho visto il mare, di quella forza che non si arrende, l'amore che sa trasformare anche il dolore in qualcosa che splende. E quando il buio sembrava vincere, tu eri lì a tenermi stretto, come si tiene un tesoro fragile, come si cura un fiore nel petto. Non servivano parole tra di noi, solo sguardi nel silenzio della vita. Eri tutto quello che ora puoi essere ancora, stella infinita, la magia che siamo stati. È un regalo che mi hai fatto tu nei giorni più disperati, quando non speravo quasi più. Ricordo ancora quella sera d'inverno, scesi dal bus stanchi del dolore, e il cielo aprì il suo quaderno di fiocchi bianchi come un favore. La neve scendeva silenziosa a consolare i nostri passi lenti, e in quella pace luminosa ci sentivamo finalmente presenti. Nel candore, nel candore di quel momento, tutto il male sembrò più lontano, come se ogni tormento si sciogliesse fiocco per fiocco piano. Latte, non servivano parole tra di noi, solo sguardi nel silenzio della neve. Sei ancora tutto quello che puoi essere sempre, anche se breve, la magia che siamo stati. È un dono che conservo qui nei ricordi più amati, dove ancora cammini con me, così. La magia che siamo stati è un regalo che mi hai fatto tu, nei giorni più disperati, quando non speravo quasi più.